Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Distanziamento un metro, mi raccomando, totale sicurezza, i genitori impauriti, ma poi sono gli stessi genitori che quando escono fanno giocare i loro figli tutti insieme al parchetto a calcio, si abbracciano, si inseguono, si baciano, tutti attaccati, e poi la scuola deve stare a guardare il metro, la temperatura. La violenza fisica e verbale è sempre da condannare, però se un ministro dell'interno in piena campagna elettorale va e citofona in casa di altri e dire scusi lei spaccia, cioè, poi te lo devi aspettare una reazione del genere, perché non è che tutti la pensiamo allo stesso modo, non la giustifico, però... Arcuri dice che ci sono le mascherine in tutti gli istituti. Due giorni fa vado a fare la riunione per mia figlia che va in seconda elementare e l'istituto ci dice procurate le mascherine perché non ci sono. Perché bisogna dare questi messaggi che non sono veri? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, e poi a partire dalle 8 l'800-240024. Oggi parliamo di scuola e quello che vorrei sentire prevalentemente sono esattamente questo. Vorrei sentire i vostri racconti, cosa avete da dirci. Il tema delle mascherine, tra l'altro, è uno dei temi centrali di questa giornata, ancora una volta, nella quale le direttrici poi della nostra rassegna stampa saranno su questo, saranno sulla Lega, sui due fronti. Da un lato l'aggressione a Salvini, della quale ci parlava poco fa un ascoltatore, dicendo violenza sempre da condannare, e però forse se lo sarebbe potuto aspettare Matteo Salvini, non lo so, sinceramente rimango molto perplesso di fronte a posizioni di questo genere, ve lo dico sinceramente, per quanto fosse più morbida la posizione del nostro ascoltatore rispetto a chi dice se l'è meritato, se l'è cercato e via dicendo. Però siamo là un po' sul confine, eh? C'è un tema, come ci diceva l'ultimo ascoltatore, anche di comunicazione. Ed è vero, come dice il primo, che ci sono quelli che fanno giocare i figli tutti insieme al parco, giocano a calcio, corrono, si abbracciano, si baciano, bevono dalle stesse bottigliette. Poi quando arrivano a scuola, per carità, stai distante un metro dai tuoi compagni. E dai. Ci siamo, è la seconda parte di 24 Mattino, quella appunto dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia. Venerdì 11 settembre, le 7:22 minuti, e giornali che, come vi dicevo, vanno su due direttrici. La prima è quella che riguarda la Lega e Matteo Salvini. Da una parte la questione giudiziaria, dall'altra la questione di questa camicia e rosari strappati durante la campagna elettorale in Toscana. La questione giudiziaria è l'apertura del quotidiano La Repubblica, appoggiata tra l'altro da un commento di Carlo Bonini che si intitola Un'ombra su Salvini. Il titolo è Tre arresti trema la Lega, perché ai domiciliari per evasione fiscale e peculato sono finiti i commercialisti che controllano la cassa del partito, scrive il quotidiano. Ci arriveremo tra un attimo. L'altro fronte, e arriveremo anche a questo, è l'aggressione, appunto, da Muccino alle sardine, l'odio diventa chic, dice il giornale. La sinistra sta con i violenti, il regista, nessuna solidarietà, è un atto comprensibile. Santori che dice, Mattia Santori delle sardine che dice, Salvini è un provocatore. Un po' sulla stessa linea troviamo il titolo di Libero, i bulli di sinistra protetti dalla stampa, per Corriere Repubblica Stampa è fatto, l'assalto di un'africana a Matteo non merita risalto, poiché rovina la loro campagna d'odio contro la destra. Molti altri giornali si dedicano invece proprio alla questione della scuola, una scuola che riparte in salita, come scrive il Corriere della Sera. Le lezioni da casa per tutto l'anno, ci comunica il Messaggero, per carità, è previsto per le superiori che non potranno garantire distanze, insegnanti e sicurezza. Il provveditore del Lazio in molti istituti sarà obbligatorio fino alla scoperta del vaccino. Niente di rassicurante su questo fronte. E la verità che si occupa proprio delle mascherine. Le scuole sono senza mascherine. Mentre Conte fa proclami in conferenza stampa, presidi e insegnanti stanno avvisando le famiglie in mezza Italia: portatevele da casa, qui non è arrivato nulla. Più politici, titoli della stampa, nel quale troviamo la sintesi della cosa principale, la cosa più importante detta dal presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del quale da giorni, come sapete, si vocifera e potrebbe diventare il prossimo segretario del Partito Democratico in caso di sconfitta pesante alle regionali per il PD. Alle regioni serve il MES, basta coi niet dei 5 Stelle, titola la stampa. Il Fatto Quotidiano prosegue la sua battaglia sul referendum, gli eletti all'estero assenteisti per il no, difendono le Camere e non ci vanno mai. Il Sole 24 Ore si dedica alla Banca Centrale Europea perché ci parla dell'euro, perché la BCE accende un faro sull'euro forte, l'apprezzamento dell'euro sul dollaro è un tema sul tavolo della BCE, ne abbiamo discusso anche se non è un target della politica monetaria, dice la presidente Lagarde, e sottolinea che verrà monitorato con attenzione. Ed è un fronte di preoccupazione per l'industria che, come ci racconta il Quotidiano Nazionale in apertura, risale la china. La produzione a luglio rimbalza del 7,4%, gli imprenditori sono prudenti e appunto il timore è proprio quello dell'andamento dell'euro. Si dedica invece allo smart working, il lavoro agile cerca un nuovo equilibrio, Avvenire nella sua apertura. E veniamo, come sempre, in questa parte della rassegna stampa a qualcosa di a qualche elemento un po' diverso da quello che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. E vi voglio portare sul Manifesto perché è una notizia che troviamo solamente là e siamo a pagina 6. Ed è una questione giudiziaria che sicuramente ha le potenzialità per far discutere. Quanto a lungo e quanto ci siamo occupati del TAP, la Trans Adriatic Pipeline, il gasdotto che è uno dei progetti energetici più grandi in costruzione nell'Unione Europea. Un progetto da 4 miliardi e mezzo, deve portare sul mercato alla vendita sul mercato europeo del gas estratto nel Mar Caspio in Azerbaigian. Ora, ricorderete che ne parlammo a lungo perché c'era tutto il popolo no TAP. La parte finale del gasdotto sarebbe dovuta arrivare, o meglio, è arrivata in realtà passando sotto una bellissima spiaggia in Puglia, la spiaggia di San Foca. Ci sarebbe stato un espianto, e c'è stato effettivamente un espianto, e poi sono stati rimpiantati degli ulivi che si trovavano in zona. Vi abbiamo parlato anche delle foto pubblicate nei mesi scorsi dal Sole 24 Ore, in un bel pezzo di Jacopo Giliberto, ancora mi ricordo chi lo firmava, che ci faceva vedere come la spiaggia di San Foca era prima e come la spiaggia di San Foca era dopo, perfettamente identica dopo lo scavo e dopo l'inserimento del gasdotto. Ebbene, apprendiamo dal Manifesto che parte il processo per disastro ambientale. No, nonostante tutto questo, nonostante tutto, sostanzialmente il gasdotto quasi non si veda. Perché oggi iniziano a Lecce due processi che in diversa maniera riguardano appunto la Trans Adriatic Pipeline. Il primo dei due vede sul banco degli imputati proprio la TAP, con sede in Svizzera, promotrice del gasdotto, del quale azionista anche al 20% l'italiana Snam. L'accusa è di disastro ambientale, riguarda anche 18 manager della stessa TAP e delle diverse aziende contrattate per l'esecuzione dei lavori. Sono reati ambientali commessi tra il novembre 2016 e luglio 2019, secondo i magistrati. C'è i lavori di preparazione di costruzione del terminal e del microtunnel e di posa dei tubi sarebbero avvenuti in assenza di permessi validi. L'autorizzazione di impatto ambientale e l'autorizzazione unica non sarebbero valide perché non terrebbero conto degli impatti cumulativi del progetto. La procura ritiene che non siano valide nemmeno le autorizzazioni di varianti in corso d'opera concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative all'espianto degli ulivi. Come vedete, sempre là si torna. E a sommare una cosa che, ripeto, farà discretamente discutere ad un'altra, si apre un altro processo contro quelli che hanno protestato, che sono accusati di aver violato la zona rossa, 26 provvedimenti per disordini nel corso di una manifestazione del dicembre 2017, 46 per reati minori tra il 2017 e il 2019, tra questi alcuni reati alquanto peculiari come sbandieramento non autorizzato. Scusate il sorriso. Furto di zerbino dall'ufficio informatico locale della società, lancio di oggetti non ben identificati, reato quest'ultimo collegato al lancio di un mazzo di fiori durante una delle manifestazioni. E questo è quello che succede in procura a Lecce. Vi vorrei portare ancora in questa parte della rassegna stampa sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Su cosa esattamente? Già ve ne accennavo poco fa alla questione dell'ambulanza, un'ora per percorrere 250 metri, quella catena di ritardi nei soccorsi, è il titolo della stampa a pagina 11 con Niccolò Carratelli, inviato a Colleferro, che racconta esattamente quello che è successo. I giardini, l'area nella quale è avvenuto il massacro di Willy, dista 250 metri dal pronto soccorso, eppure l'ambulanza ci avrebbe messo 40 minuti ad arrivare, nonostante appunto sia stata dopo essere stata chiamata. L'unica ambulanza un po' scassata, Niccolò Carratelli, del pronto soccorso di Colleferro era impegnata in altro e quindi è stata mandata un'altra ambulanza da 15 km di distanza. Qualcuno è corso verso il pronto soccorso, ha detto c'è un ragazzo che è stato massacrato, ma le regole non permettono ai medici di muoversi dal pronto soccorso, e quindi nessuno, ai barellieri, e quindi nessuno è potuto intervenire per aiutare Willy. L'altra cosa sulla quale vi voglio portare è questa. L'altro giorno vi ho letto quel pezzo che anche qua ha fatto un po' discutere, un pezzo di Mattia Feltri nel quale nel suo Buongiorno sulla Stampa diceva sostanzialmente i tatuaggi, i muscoli, le arti marziali esibite, tutto questo non mi fa dire che sono colpevoli, restano presunti colpevoli perché io sono un pieno garantista, la stringo molto, Mattia Feltri l'aveva scritta molto meglio. E quindi a chi mi dice sono incurabile rispondo sì, sono incurabile. È interessante il fatto che dalle colonne del Foglio un campione del garantismo come Giuliano Ferrara si schieri un po' dalla parte opposta e dice c'è un nuovo politicamente corretto che è l'ipergarantismo, meglio ipergarantisti che forcaioli, ma un garantista rigoroso e senza illusioni, aperto al carattere scorretto, invasivo e appassionato della realtà e dell'umanità, è ancora meglio. Dice Ferrara, tra le altre cose, non arrivo a negare per ragioni di procedura penale l'orrore che mi ispirano certe facce, certe pose patibolari, certi scampoli di conversazione, certi post, certi stili di vita, diciamo così, ampiamente testimoniati e qualche volta apertamente rivendicati. Rivendico il diritto all'innocentismo e al colpevolismo, che non c'entrano con il garantismo, ma sono parte di un ineliminabile rapporto, non solo istintuale, bensì razionale, con la realtà delle cose. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Simone, buongiorno. Senti, ma io volevo dire, ma i presidi sanno solo lamentarsi? Perché da marzo potevano, diciamo, organizzare anche qualcosina in più. Anche perché i centri estivi mi sembra che hanno funzionato. Quindi non capisco perché. Sì, le difficoltà ci sono, ma sono anche pagati per affrontarle, no? Riunione a scuola elementare, provincia di Como, niente mascherine. Risultato, le farmacie esaurite. Povera Italia. 3492386666 se volete, per le vostre testimonianze, poi a partire dalle 8 l'800240024 in una puntata che dedichiamo molto a voi, eh. Avremo anche degli ospiti naturalmente per parlare un po' di scuola. Molto rapidamente sulla scuola vi do il senso che circola su qualche titolo per darvi la misura di quello che succede. Pagina 7 della Repubblica. La febbre si misura a scuola. Il nuovo fronte dei governatori. Tutto questo, ragazzi, è venerdì. La scuola riapre lunedì. Ma ci possiamo pensare adesso a questa cosa qua? Comunque, il punto è questo. Pezzo di Sara Strippoli sulla Repubblica. Che ci racconta che la giunta di centrodestra guidata dal governatore Cirio, siamo in Piemonte, pretende una doppia verifica e decide che tocca alle scuole mettere in fila ogni giorno i ragazzi per la misurazione della febbre. Se questo poi non fosse possibile, per ragioni di carenza di personale o di altre motivazioni oggettive, le famiglie devono scrivere sul vecchio diario, su un foglio di carta o sul registro elettronico qual è la temperatura rilevata a casa, ed è appunto il nuovo fronte che si apre con, come già vi dicevamo, Andrea Crisanti che dice la temperatura 37 gradi e mezzo non basta, ci vogliono 37 gradi, sopra i 37 gradi i ragazzi a casa. Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, pagina 3. Bambini con i sintomi, il caos del rientro, tra certificati e tamponi, i dubbi dei pediatri, e aggiungo io al titolo i dubbi dei genitori. Cioè, mio figlio ha i sintomi, ha dei sintomi influenzali. Cosa faccio, cosa devo fare oltre a tenerlo a casa? Devo pensare a fargli fare il tampone? Come funziona? In alcune scuole è richiesto il certificato per le assenze prolungate, in altre scuole non è richiesto. Il pediatra andrà contattato per telefono, condurrà un triage telefonico. Se decidesse che i sintomi non indicano un caso di Covid ma un classico male di stagione, bisognerà produrre un certificato medico al rientro, e chi lo produrrà? E il pediatra si prenderà questa responsabilità senza sapere se è Covid oppure no? Qua, attenzione, non è che uno ce l'ha col governo, perché qua sono coinvolti tutti, come diceva l'ascoltatore, i presidi, il governo, le regioni, i sindaci. C'è una carenza di programmazione complessiva del paese che è evidente. Per dire, il Lazio, ci racconta il Messaggero sempre a pagina 3, diventa un caso, racconta Cristiana Mangani. Le maggiori criticità in provincia di Latina, anche Rieti e Viterbo per il rinvio, i sindaci in sostanza non riaprono. Al sud si è già deciso di partire dopo le regionali e il sindaco di Bari, Antonio De Caro, che è anche presidente dell'ANCI, lamenta, però ripeto, anche qua abbiamo degli esempi virtuosi, abbiamo degli esempi virtuosi, pensate a Bergamo, vi raccontavamo, abbiamo fatto una battaglia per dire trovate delle altre sedi per far andare a votare le persone che non siano le scuole, per non farle chiudere di nuovo subito dopo riaperte. Ebbene, il sindaco di Bergamo ha fatto sì che metà dei seggi che prima erano nelle scuole fossero in altri luoghi, fossero in luoghi di proprietà del comune. È una riduzione, però l'ha fatto De Caro, che dice tutto lasciato sulle spalle dei comuni, anche il governo. Ci ha risposto solo ieri. Questo per quanto riguarda la scuola, ci torneremo dopo, ovviamente, alle 8:35. Aspetto anche voi. Il fronte della Lega, il fronte politico oggi riguarda moltissimo la Lega, riguarda moltissimo Matteo Salvini. Direi di partire dalla questione giudiziaria che la Repubblica decide di mettere in apertura con questi tre arresti. Trema la Lega è il grande titolo. Qual è la vicenda? Sono ai domiciliari per evasione fiscale e peculato i commercialisti che erano i revisori dei conti della Lega alla Camera e al Senato. Sono gli ex revisori dei conti. Al centro dell'inchiesta cosa c'è? C'è una compravendita gonfiata con la Regione Lombardia, da 800.000 euro. Che cosa succede? Succede che un commercialista, uno di questi commercialisti, nomina come prestanome di una società che ha in pancia un capannone a Cormano, siamo nel milanese, e questo capannone viene venduto a 400.000 euro ad un'altra società che è dello stesso commercialista di prima ma intestata ad un'altra persona. Cosa succede? Succede che questo capannone, passato un tempo che si ritiene congruo, viene rivenduto al doppio alla Lombardia Film Commission. il cui presidente è un'altra di queste persone, un altro di questi personaggi. Scrive Carlo Bonini, per darci la misura della, dell'importanza politica di quest'inchiesta, dice questo: a chi sin qui avesse solo orecchiato la storia dei tre commercialisti della Lega converrà familiarizzare rapidamente con i nomi di Michele Arturo Maria Sciglieri, Alberto Di Rubbe e Andrea Manzoni, perché l'ordinanza del GIP di Milano che li manda agli arresti domiciliari per peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta e sottrazione del pagamento delle imposte non racconta solo una stangata ai danni della regione Lombardia, perché i tre professionisti non sono mariuoli di passo qualunque, perché nello studio di Sciglieri nel 2017 era domiciliata la Lega Salvini Premier, perché Di Rubba e Manzoni, dei gruppi parlamentari della Lega di Salvini, sono stati revisori dei conti, perché, ecco il punto, a 10 giorni dal voto il filo tirato dalle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e della Procura di Milano sulla compravendita di un immobile di Cormano è un'apertura di gioco, chiamiamola così, che porta dritto dritto al cuore della Lega, al suo leader Matteo Salvini. Così Carlo Bonini sul quotidiano La Repubblica, con Salvini dall'altra parte che denuncia quella che definisce come una sorta di aggressione giudiziaria, non lo fa pubblicamente, lo fa trasparire, lo fa arrivare tramite retroscena. L'altro fronte è quello di questa aggressione della quale lungamente abbiamo parlato, quello che Fabrizio Boschi sul Giornale definisce il delirio di sardine e Muccino. Salvini se l'è andata a cercare. Santori giustifica la donna che ha strappato rosario e camicia al leghista e dice colpa delle sue provocazioni. Ci sono provocazioni e provocazioni, scrive Boschi, ma mentre alcune vengono tollerate, altre no. È il solito giochino dei due pesi e delle due misure che alla politica piace tanto. Così Fabrizio Boschi, che riassume in questo modo qual è alla fine il pensiero del quotidiano. Cosa ancora? C'è questa bella notizia, no? Che ad un colosso della e tra poco arriveremo anche al resto della politica, che ci parla soprattutto di Europa, però prima di quello fatevi dare la bella notizia che ci arriva dal Sole 24 Ore, nella pagina di Finanza e Mercati, la trovate anche su qualche altro giornale, ne avete sentito anche in GR24, il pezzo di Riccardo Barlame ci racconta della svolta: una donna al vertice di Citigroup, diventerà amministratore delegato. Per la prima volta una delle big bank, delle grandi banche non sarà guidata da un uomo. Le frasi di Jane Fraser, che è questa donna che ascende a questa carica: essere madre di due bambini piccoli e avere una carriera è la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare. Sei perennemente stanco, in colpa e devi imparare a fare le cose in modo diverso. È stata la mia realizzazione, perché ho imparato a essere concentrata solo su ciò che è veramente importante. Sono diventata brava a saper dire di no e sono diventata più umana nei confronti dei clienti che affrontano questi problemi. E l'analisi è di Monica D'Ascenzo, che scrive: il vero traguardo, basta il titolo, ve lo do così, il vero traguardo solo quando non sarà più una notizia, solo quando i casi come quello di Jane Fraser non saranno, come persone come Jane Fraser non saranno delle mosche bianche, ma la guida delle aziende sarà sempre più nelle mani delle donne. Traffico. C'è anche molta Europa nella rassegna stampa di oggi, molta Europa e molta politica europea. Se prendete l'intervista, forse l'intervista politica di giornata è quella al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e nei retroscena, nei rumors, l'uomo che dovrebbe ascendere alla carica di segretario del Partito Democratico. Il titolo sulla stampa, pagina 3, nell'intervista di Fabio Martini è: sul MES, sul fondo salva stati, dichiarazioni surreali, basta col niet dei 5 Stelle. È una posizione molto netta e molto forte anche nei confronti del Movimento 5 Stelle. In questa chiave ovviamente ha una valenza più politica, perché il sì al MES dal Partito Democratico era già arrivata. E Lina Palmerini, nel suo Politica 2.0, la sua rubrica quotidiana sul Sole 24 Ore, a pagina 9, ci riporta esattamente a quello che è il tema che stiamo affrontando da giorni, ossia: sia sul recovery fund, sia sul voto, sia il voto sul MES sono appesi al test delle regioni. A seconda di come andranno le regionali, là ci si muoverà. Si muoverà presumibilmente il Movimento 5 Stelle, si muoverà il Partito Democratico e vedremo come andranno le cose. Voglio salutare in chiusura di questa rassegna stampa il professor Sergio Fabbrini, che è con noi, professore ordinario di Scienza Politica e Relazioni Internazionali, dipartimento, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla Luis Guido Carli, editorialista del Sole 24 Ore. I suoi editoriali, professor Fabbrini, sono stati appena raccolti in un libro, Prima l'Europa, è l'Italia che lo chiede, un'inversione dello slogan sovranista. Buongiorno Fabbrini. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Prima l'Europa, è l'Italia che lo chiede. Io ho dato un'occhiata in questi giorni al libro, che è stata un'occasione anche di rileggere editoriali che in realtà avevo già visto, e mi sono accorto che pezzi importanti del lavoro che ha fatto sul Sole 24 Ore, professore, non sono invecchiati, e ne troviamo testimonianza in queste ore. Tanto per farle un esempio, con la vicenda di Lesbo che sta tornando ad esplodere, il campo di Moria, questi 12.000 profughi che in questo momento dopo l'incendio sono sparsi, non si sa che fine faranno, il presidente del Consiglio Conte che torna ad invocare una redistribuzione obbligatoria dei profughi che però non arriva, uno dei grandi limiti della struttura istituzionale del continente. Sì, è vero. Intanto grazie per l'invito, è sempre un dovere per me cercare di spiegare che cos'è l'Europa. Come ha scritto Giuliano Amato nella prefazione del libro, il lavoro che io ho cercato di fare è stato soprattutto un lavoro di informazione e di comprensione. L'Europa è entrata al centro, è la priorità dei dibattiti nazionali, delle politiche nazionali. Tuttavia, in particolare nel nostro paese, ahimè, la conoscenza dell'Europa è molto limitata. Ora, come è fatta l'Europa? L'Europa è fatta di due motori. Un motore che viene chiamato sovranazionale, che riguarda fondamentalmente la gestione e la costruzione del mercato unico, dove c'è una sorta di equilibrio tra la Commissione europea, che fa le proposte di legge, il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri nazionali, che approvano oppure rifiutano quelle proposte di legge. Ma c'è una seconda Europa, quella a cui lei menzionava con riferimento a Lesbo, ed è l'Europa invece intergovernativa, che si è affermata da Maastricht, il Trattato di Maastricht del 1992, si è affermata da Maastricht in poi, e consiste nel fatto che cruciali politiche, in questo caso la politica dell'immigrazione e la componente importante della politica dell'asilo, il riconoscimento cioè dello status di rifugiato politico agli immigrati, questa politica, così come la politica fiscale dell'Unione Economica e Monetaria, così come la politica della difesa, della sicurezza, oppure la politica estera, la politica dell'intelligence, queste politiche sono state portate a Bruxelles, ma sono gestite direttamente dai governi nazionali che si incontrano a Bruxelles. E l'istituzione chiave di questo modello, di questo sistema intergovernativo, è rappresentato dal Consiglio europeo dei capi di governo. Ora, per rispondere alla sua domanda, di nuovo, ogni volta che si parla di Europa bisogna perdere un po' di tempo, sì, per spiegare in che termini funziona. E quello che non funziona, Lesbo ci dimostra che non è che non funziona l'Europa, non funziona l'Europa intergovernativa, perché sul piano del funzionamento del mercato l'Europa ha costruito il più importante integrato mercato unico al mondo. Una realtà che anche gli inglesi, ahimè, dovranno riconoscere. Loro pensano di poter essere ancora una potenza imperiale, minacciare l'Europa, ma non hanno questa possibilità. Sul piano del mercato l'Europa è molto forte e c'ha un equilibrio istituzionale. Dove le cose non funzionano è appunto quando vengono demandate le scelte, professore, ai governi, alle decisioni tra i governi. Questo perché? È perché questo non funziona, perché questo il Consiglio europeo, oppure il Consiglio dei Ministri degli Interni, oppure il Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari, debbono votare all'unanimità, mentre invece nell'altra Europa il voto è sempre a maggioranza, può essere maggioranza semplice nel caso del Parlamento, maggioranza qualificata nel caso del Consiglio dei Ministri, ma quando ci sono politiche intergovernative il voto è all'unanimità. Ora lei capisce che è sufficiente che un governo, diciamo il governo ungherese, il governo polacco, i governi di Visegrad, sollevano il veto, dice noi non siamo d'accordo, quindi la Commissione oppure il nostro Presidente del Consiglio dice bisogna redistribuire automaticamente gli immigrati, soprattutto i rifugiati, perché la questione riguarda soprattutto i rifugiati, dobbiamo ridistribuirli automaticamente sulla base del reddito nazionale, della popolazione, del territorio. E così ha fatto la Commissione, un gruppo, una serie di governi hanno detto no, noi poniamo il veto, e quindi paralizzano il processo decisionale. E questo che io cerco di fare ogni domenica, di spiegare come funziona. Allora professore, il nostro tempo è esaurito, è poco, sono pochi i minuti, però la riconvocheremo per parlare di tutto questo sicuramente in puntate più ampie, in spazi più ampi sicuramente, perché è un fronte importantissimo, sottolinea molto in questi editoriali il professore il tema dell'interdipendenza europea, che è una cosa che non si può più rompere. Questo, se vogliamo, no, è un tema che darà un po' fastidio agli euroscettici, però così è. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Grazie al professor Sergio Fabbrini, lo trovate il suo libro, appunto, che si intitola Prima l'Europa, l'Italia che ce lo chiede, edito dal Sole 24 Ore, GR24. Ci ritroviamo tra poco. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con SuperSite. Suoruba.it.